Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buongiorno da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. Ieri con Federico Frattini abbiamo cercato di tracciare un quadro delle nuove tecnologie fotovoltaiche a film sottile. In particolare è emersa da un lato la possibilità, ma in realtà ormai si tratta di una certezza, che esse contribuiranno, diciamo, ad un abbattimento drastico dei costi del fotovoltaico. Dall'altro è emerso che queste nuove tecnologie aprono a una serie di applicazioni per le quali il fotovoltaico classico è molto poco adatto. In particolare abbiamo capito che il film sottile ha forti potenzialità per quanto riguarda le applicazioni in campo architettonico, soprattutto laddove si voglia coniugare architettura e design, un settore nel quale l'Italia è un marchio naturale. Allora cerchiamo di capire quali sono le opportunità da questo punto di vista, ancora una volta con l'aiuto di Federico Frattini, ricercatore dell'Energy Strategy Group del Politecnico di Milano, che è tornato a trovarci ed è in linea con noi. Buonasera Frattini. Buonasera a lei. Allora, ci siamo lasciati ieri parlando di queste applicazioni in campo architettonico. Mi pare che il motivo principale per cui il film sottile è così interessante per questo tipo di applicazioni sia in qualche modo la sua flessibilità. Sì, sicuramente il film sottile nelle applicazioni di integrazione architettonica rispetto al silicio cristallino tradizionale è molto più flessibile. Innanzitutto, ad esempio, permette di essere realizzato su superfici vetrate curve, che si adattano e piacciono molto agli studi di design o di architettura, può essere realizzato in colorazioni diverse. Esistono già oggi alcuni produttori che stanno proponendo delle vetrate fotovoltaiche che si basano sulla tecnologia del diselegnuro di indio e rame con colorazioni rosso o blu. Possono essere realizzati su supporti trasparenti o semitrasparenti, che quindi lasciano attraversare la luce, oppure ancora possono essere depositate su guaine, cosiddetti solar roof, che sono guaine isolanti polimeriche che incorporano le celle fotovoltaiche in film sottile e vengono usate ad esempio per impermeabilizzare tetti e coperture. Quindi siamo proprio di fronte a delle possibilità di utilizzare degli elementi architettonici classici o anche più recenti che però incorporano in più questa funzione. Quindi le applicazioni sono moltissime. Sono moltissimi i prodotti già oggi disponibili attraverso cui applicazioni di BIPV, come si dice, Building Integrated Photovoltaics, possono essere realizzate, sono molte. Si va dalle tegole o i coppi fotovoltaici, appunto come dicevo prima, ai cosiddetti solar roof, queste guaine isolanti polimeriche, o infine, questo è il prodotto più interessante, probabilmente le vetrate fotovoltaiche, cioè quei prodotti in cui il film sottile o anche i moduli tradizionali vengono depositati su substrati appunto di vetro, che possono essere utilizzati per realizzare facciate continue. Ad esempio il palazzo della nuova sede della Regione Lombardia Milano integra un impianto da 170 kW. Quando parliamo di facciate continue stiamo parlando di quelle, insomma, facciate in vetro che tipicamente ricoprono i grattacieli o insomma i grandi edifici, certo. Oppure che hanno... Prego. Come lucernari, ad esempio, oppure nella realizzazione di pensiline o altri sistemi di ombreggiamento. Ecco, mi interessava la questione dei coppi o delle tegole, perché oggi quando si parla di tegole fotovoltaiche, insomma, si parla di piccoli pannelli fotovoltaici che però hanno tutto l'aspetto del pannello fotovoltaico. Come lei sa, in Italia siamo pieni di zone vincolate da un punto di vista architettonico e artistico, abbiamo più di 5.000 borghi medievali, poi centri storici di tante grandi città. È possibile pensare che il film sottile venga utilizzato, per esempio, per fare delle tegole che si presentano come delle normali tegole, ma in più producono energia elettrica? Sì, certo, questa è un'applicazione che è attualmente allo studio e non è nemmeno troppo di là da venire. In un paese come l'Italia, come dice giustamente lei, la possibilità di sostituire un tetto in un centro storico, in un borgo medievale o altre parti di un edificio con dei componenti che, nonostante all'apparenza siano del tutto analoghi a quelli che vanno a sostituire, hanno la capacità di produrre energia elettrica, e questo proprio grazie alla tecnologia del film sottile. Ecco, quindi insomma, questo forse è un messaggio che possiamo lanciare: chi fa tegole, chi fa coppi, ovviamente chi fa facciate continue, quindi facciate in vetro, potrebbe insomma orientarsi in questa direzione. Io penso assolutamente di sì, nel senso che c'è già oggi una tecnologia disponibile, il film sottile appunto, si tratterebbe di integrarla nei loro prodotti facendo leva, se si vuole, sul gusto per il design, per l'architettura, che sono tutti italiani insomma, e sfruttare questi per costruirsi un vantaggio competitivo anche magari sui mercati europei. Ecco, invece la penetrazione di queste tecnologie non è molto avanzata nel nostro paese. Sì, assolutamente. Oggi gli impianti di una certa taglia che incorporano vetrate fotovoltaiche, soprattutto con fin sottile, non sono numerosissimi. E secondo noi è un problema prevalentemente di tipo culturale, se si vuole. Oggi si guarda molto al costo della vetrata fotovoltaica, dimenticandosi che però qui bisogna ragionare in ottica differenziale. Un vetro isolante che dovrei comunque utilizzare, anche se non integrassi un impianto fotovoltaico, può arrivare a costare ad esempio 300 euro al metro quadro. Una vetrata fotovoltaica oggi può costare intorno ai 500 euro al metro quadro. Considerando quindi che l'installazione è sì leggermente più costosa perché è più complessa, ma non così differenziale. Certo, ci vogliono un po' di cavi, bisogna insomma portare in giro la corrente, certo, certo. Il risparmio è più elevato rispetto a quello che si può immaginare ragionando come fino ad oggi abbiamo visto nella filiera dell'edilizia, insomma. Forse paradossalmente addirittura sono proprio le situazioni in cui è più conveniente installare il fotovoltaico, perché tutta una serie di costi ci sarebbero comunque e non fa molta differenza il fatto che il vetro appunto sia o non sia in grado di produrre energia elettrica. Per di più il fin sottile nelle applicazioni di integrazione architettonica ha molti vantaggi, ad esempio quello di riuscire a produrre molta energia anche in condizioni di luce diffusa e di irraggiamento non ottimale che fanno aumentare significativamente i ritorni economici dell'investimento. Frattini, grazie ancora una volta. Grazie a lei. Mr. Kilowatt torna domani, sempre alla stessa ora, per fare un bagno nelle correnti del Mare del Nord, dove stanno partendo i primi generatori che producono energia dalle maree. A domani.